La barca, tutto sommato, è comoda. Non è grandissima, ma è confortevole. La prima volta che ci sono salito, non pensavo ce l'avrei fatta. Tutto quel movimento, le onde che salivano e scendevano, le maree. No, non posso, non riesco, pensavo. E mi veniva voglia di tornare indietro o approdare nel primo porto sicuro. Ma sapevo che in qualche maniera su quella barca ci sarei dovuto salire. E così un giorno, non so nemmeno dirti quando, con esattezza, ho deciso di farlo. Con molta incertezza, un'infinità di dubbi e una buona dose di incoscienza. Ma in qualche maniera te lo dovevo e sapevo che farlo era una cosa giusta. Oggi è il secondo giorno e devo dire che va leggermente meglio. Ieri è stato il caos totale. Sarà perché c'era un vento fortissimo, sarà perché le onde erano così alte che sembravano assalirmi. Quasi non riuscivo a respirare. Pensavo di essere inerme di fronte alla potenza del mare. Eppure io questo mare lo conosco bene. Non solo, ho sempre provato attrazione per il mare agitato. Lo sai? Prima di imbarcarmi sono tornato a Castellammare. Sì, proprio dove tu ed io andavamo a camminare, sul lungomare. È la colazione, te la ricordi la colazione della domenica? E dopo la colazione di rito, al bar, scattava la passeggiata fino al Minamare. Che strano che era quel posto, per certi versi indescrivibile, affascinante e inquietante allo stesso tempo. Quando andavamo noi, era ancora in stato di degrado, abbandonato, ma ogni volta provavamo un misto di paura e attrazione. Ogni volta che lo vedevo, la stranezza consisteva nel fatto che era un hotel con i lavori di costruzione già avviati, ma ormai fermi da tanto tempo, troppo. Non saprei nemmeno dire quando. Era come se quell'ammasso di cemento fosse sempre stato lì, nato così, rimasto così, immutabile nel tempo e impassibile di fronte ad eventi e alle stagioni che si sono succedute senza veder muovere una foglia su quella struttura. Quando riusciva ad entrarci dentro, la sensazione di abbandono ti rapiva e difficilmente ti lasciava andare. Il silenzio delle mura contro il fragore incessante del mare. Perché poi camminavi verso le finestre? Ti affacciavi e c'era il mare. Bastava un passo e ti sembrava di essere lì in mezzo. Ti confesso che in parte quel posto mi affascinava. Aveva un che di misterioso, prezioso, imperturbabile al passare degli anni, insensibile a ciò che accadeva fuori, da quelle mura, l'immutabilità di qualcosa che resisteva al passare dei giorni, forte di quella veduta unica che ti faceva sentire all'interno di un faro in mezzo al mare. Il Miramare ormai per noi era una certezza, faceva parte del rituale e ci dava la sensazione che, nonostante le imperfezioni, nonostante l'abbandono, il vuoto, lui era lì per noi e che, a prescindere da ciò che sarebbe diventato, sarebbe stato così per sempre. Ma ti ricordi quando e quanto fantasticavamo sui lavori di ristrutturazione? Ogni volta che ci passo, penso sempre al mare che vedevo da lì, alla meraviglia della distesa d'acqua, la stessa da miliardi di anni, che si stendeva davanti a noi. Com'era diverso quel mare da quello che vedo ora, mentre lo osservo da questa barca e mi domando come abbia fatto a salirci, come io riesco a fidarmi di questa imbarcazione che di stabile sembra proprio non aver nulla e come ci riesca da solo, io che di barche non so praticamente nulla, che riesco giusto a nuotare per non affogare e che rispetto a concetti come direzioni del vento e tratte marina, sono a dir poco neofita. Come posso far finta di nulla quando ho questa specie di muro d'acqua che proprio ora, mentre penso al Miramare, si innalza davanti a me? come posso ignorarlo? Come posso restare qui a guardare mentre rischio seriamente di andare a picco? Perché una cosa è certa, mamma, quell'onda travolgerà me e tutto il resto. A volte vorrei che fosse così. Sarebbe il modo più semplice per riabbracciarti. Ma io non sono così. Per fortuna ci sono solo momenti di grande sconforto che poi cedono il passo alla ragione, ma soprattutto mi fanno pensare che non saresti contenta di me. Mi sento anche in colpa quando mi prendono quei momenti. Sarà per questo che adesso, paradossalmente, sono qua. Il mare sotto di me e il cielo sopra. Deve averlo detto qualcun altro, ben più famoso di me, o magari somiglia a qualcosa che ho già letto. Perché mentre la penso questa frase mi suona familiare, con tutta la sua poeticità. Il problema vero è che invece di poetico qui non c'è nulla. Se mi guardo intorno ho paura, perché qui intorno non c'è niente. Solo madre natura, che di materno in questo momento pare avere proprio poco e addirittura sembra abbia voglia di prendersi gioco di me. E allora sai che faccio? Io quell'onda non la guardo, chiudo gli occhi, ripenso al miramare e sia quel che sia. I ricordi possono essere una panacea o una maledizione. Ce ne sono alcuni che si rincorrono ossessivamente nella testa, quasi che volessero dirti qualcosa, come se avessero un messaggio da darti, solo che a volte lo fanno in una lingua incomprensibile, che tu provi a decifrare, ma spesso senza esito. Ce ne sono altri che invece sei tu a cercare, perché lì per lì sembrano farti stare meglio. E allora rincorri a loro come se fossero un rifugio sicuro, una culla, una casa, un abbraccio che ti avvolge e ti fa sentire protetto. Un po' come viaggiavamo insieme nella nostra Fiat 600, sgangherata, sbeccata e graffiata, ma comunque nostra. Spesso i nostri viaggi li facevamo lì, proprio in quella macchina. Come quando mettavamo "Con te partirò" e la cantavamo insieme, a squarciagola. E allora non mi importava più niente del traffico di Castellammare, non mi importava nemmeno del logo del nostro negozio di biciotteria, attaccato agli sportelli della macchina. Caraibi. Sembrava uno scherzo del destino. O forse in quel nome era racchiuso il nostro sogno più segreto, quello di andarci insieme e di vederle dal vivo, quelle spiagge bianchissime e quel mare cristallino, dove il tempo si ferma e pensi che nulla possa accadere. Quel mare calmo e piatto, non come questa massa in forma d'acqua, che giorno dopo giorno mi travolge e sembra proprio non volermi dare tregua. Se fossi qui, saresti in grado di tranquillizzarmi anche su questo. Ieri, oggi, domani, il tempo si accavalla, proprio come queste onde. Riapro gli occhi e no, non mi sento meglio. Chissà se andrà meglio domani. Intanto è calato il buio e ho un po' paura di addormentarmi in questa odissea, tutta mia. Il fatto è che non mi sento Ulisse e non ho un posto dove tornare, né dove andare, o meglio, lo avrei anche, ma senza di te non è lo stesso.